Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Speciale Paese Reale. Prosegue il nostro viaggio nel paese reale delle aziende italiane che producono ricchezza e che affrontano le difficoltà legate alla crisi contingente. La scorsa settimana abbiamo ascoltato le testimonianze di Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora Penne, e Alberto Zanatta, direttore generale del gruppo Tecnica. Oggi il primo ospite è Lucio Tasca d'Almerita. Il luogo è la Sicilia. L'azienda produce vino. Lucio Tasca d'Almerita, assieme ai figli, guida 5 aziende, la principale delle quali è la tenuta Regaleali, di oltre 500 ettari tra le colline al confine fra Palermo e Caltanissetta. Producono 20 etichette e il 40% della produzione è esportato all'estero, Stati Uniti e Germania in particolare. Voi vedete difficoltà sul mercato italiano e per la vostra azienda, e anche che cosa pensa lei di questo momento? Beh, devo dire che questo è il primo anno nella mia vita in cui non sono ottimista. Penso che il 2012 sarà pesante quanto il 2011, se non di più. Penso che i nostri politici devono darsi una mossa mentale e fare le cose che, come Dio comanda, e che diano più spazio ai tecnici se sono bravi, e credo proprio che siano bravi e riescano a fare quello che devono fare, perché non ci sono alternative né vie di mezzo. Bisogna fare dei tagli, bisogna intervenire pesantemente, chirurgicamente, e bisogna lavorare di più. Questo è poco ma sicuro. Ecco, voi poi siete quelli che, le aziende sono quelle che poi creano quella ricchezza concreta, reale, che fa sì che poi l'Italia sia in una situazione di difficoltà, ma che sia diversa dalla Grecia, dove invece queste ricchezze mancano. Voi nel vostro lavoro quotidiano quanto risentite di questa situazione? Dovete far molta più fatica? Moltissima? Sì, si fa molto più fatica, però c'è una cosa fondamentale, che il cervello parte alla ricerca di motivazioni, spinte più interessanti e più, se vogliamo, geniali. Cioè trovare tutti i giorni, o trovare delle motivazioni, soprattutto qualche cosa che ti dia dei risultati. Insomma, il cervello si mette in moto quando è in difficoltà, non c'è dubbio. Più in difficoltà sei, se hai un cervello che funziona, più cerchi soluzioni ai problemi. E questa credo sia l'unica strada, e poi lavorare di più, non c'è niente da fare. Che effetto fa lei sentir dire che bisogna fare tagli, che bisogna lavorare sulle pensioni, che bisogna... E soprattutto sentir dire che questi problemi sono legati al mondo, diciamo, finanziario, cioè di quell'economia che è un po' meno concreta rispetto a quella in cui lavorate voi, a lei come ad altri imprenditori che invece tutti i giorni fate delle cose molto concrete. Beh, la finanza mi pare abbia fatto tante porcherie e continua a farle. Questo è un grande problema, non soltanto italiano, è un problema anzi che non c'è in Italia, è più importante nei paesi, negli Stati Uniti piuttosto che in UK. E questa è una cosa che andrebbe regolamentata, diciamo, questo non sono, credo, solo io a dirlo, credo che sia un fatto comune. Oggi le regole non sono rispettate in nessun campo, in niente. Oggi le quattro frecce dell'automobile servono per parcheggiare in seconda fila, non servono per segnalare il pericolo. E questo dà l'idea di quello che l'Italia è. E questo secondo me è il grosso problema, il non rispetto delle regole. Oggi la vostra azienda, se lei dovesse definirla, e non è semplice, anche con qualche numero e qualche prodotto fondamentale, cioè se lei dovesse darcene un profilo, quali sono a grandi linee gli elementi che danno il profilo all'azienda? Il numero di bottiglie, fatturato, le persone che lavorano con voi? Oggi l'azienda produce oltre 3 milioni di bottiglie, vendiamo in 68 paesi nel mondo, tiriamo naturalmente... cercare di allargarci ancora, perché oggi i mercati internazionali sono quelli che dove si vende, e sono anche quelli che pagano, per cui l'Italia adesso è abbastanza triste situazione, il mercato certamente in Italia non cresce, quindi ci rivolgiamo all'estero già da tanti anni. Ci siamo ritrovati, non so, io lavoro con i miei due figli maschi che lavorano in azienda, e ci siamo ritrovati, non so, un giorno uno stava negli Stati Uniti, l'altro in Russia e l'altro in Cina. Una cosa che non avrei mai pensato 15 o 20 anni fa. Ecco, ci siamo trovati un giorno appunto persi per il mondo, e devo dire mi ha fatto molta impressione. Adesso parliamo di un'altra azienda e di un altro settore, FIAM. Il 69% del fatturato di FIAM è costituito dalle componenti automotive, e quindi dalle batterie a avviamento, dagli avvisatori acustici e dalle antenne, mentre il resto è costituito dalle batterie industriali e da altre attività. L'azienda ha stabilimenti produttivi dislocati nei mercati strategici di Italia, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Brasile, India e Cina. È il terzo produttore in Europa, con oltre 450 milioni di euro di fatturato. A guidarla c'è Stefano Dolcetta, esponente della famiglia che la gestisce dagli anni 40. Lui e il cugino hanno ripreso in mano l'azienda dopo un periodo in cui era stata affidata a un management esterno. Oggi le cose stanno andando bene. Sì, sì, oggi le cose stanno andando molto bene e molto meglio, diciamo, e soprattutto abbiamo, come dire, consolidato i business storici dell'azienda, e abbiamo consolidato la presenza nei vari mercati, stiamo investendo in nuove tecnologie in maniera massiccia e stiamo anche investendo nei mercati emergenti proprio per ampliare la nostra attività, insomma, a livello mondiale. Emergenti nel senso dell'Oriente? O beh, sia l'Oriente che Sud America. State sentendo, avete risentito voi del momento, diciamo, difficile, tanto per non usare sempre le stesse parole, crisi? Avete avuto delle ripercussioni o no? O le state già superando, come alcune aziende ci raccontano? Ma guardi, noi abbiamo avuto la prima parte dell'anno che non è stata particolarmente positiva, sia in termini di domanda sia in termini di costi delle materie prime abbastanza elevate. E quindi questo, abbiamo avuto una difficoltà nel ribaltare sui prezzi l'incremento delle materie prime. E diciamo da giugno però le cose sono cambiate e il mercato è diventato un po' più vivace rispetto alla prima parte dell'anno, le materie prime sono scese di prezzo e quindi i margini sono ritornati a essere interessanti, diciamo, anche migliori del 2009, che era stato un anno positivo per noi. Tra l'altro voi vi state iniziando a muovere anche sulle rinnovabili. Sì. Le sue prospettive per il futuro, cioè se lei dovesse dire in un arco breve di un paio d'anni, ecco, che cosa si aspetta e che cosa pensa di fare? Ma guardi, noi vogliamo crescere, perché riteniamo che le dimensioni del gruppo Fiam non sono ancora adeguate a una presenza globale, no? Noi vogliamo essere presenti in tutto il mondo e dove siamo presenti vogliamo avere una presenza significativa, quindi questo ci porterà a fare dei grossi investimenti per crescere in termini di organizzazione e in termini anche di evoluzione dei prodotti che stiamo attualmente fabbricando e vendendo. Sentiamo invece come ha affrontato la crisi una grande impresa, la Bonfiglioli Accumulatori. Nel 2009, a causa della crisi mondiale, il fatturato di Bonfiglioli era scivolato dai 663 milioni del 2008 a 400 milioni. Un crollo a cui l'azienda bolognese ha risposto con coraggio, venendo premiata dal mercato. Fatturato 2010 chiuso a quota 600 milioni e primo trimestre 2011 a 179 milioni, più 53,4% rispetto al marzo 2010. Ora il piano triennale prevede interventi strutturali e innovativi che vogliono portare l'azienda a 800-900 milioni di fatturato nel 2013. Sonia Bonfiglioli, presidente e amministratore delegato, ha raccontato così a un recente convegno dell'AIDAF gli elementi principali su cui l'azienda ha lavorato per la ripresa. Noi siamo state tra le aziende che credo hanno sofferto pesantemente la crisi nel 2009 e noi oggi siamo organizzati per le aree di business che abbiamo in tre business unit. Il settore meccanico per noi è stato un settore che ha sofferto moltissimo, la crisi lo ha purtroppo messo in evidenza, soprattutto quelle che sono state le aree che per noi erano aree che noi chiamiamo movimento terra, che sono state legate all'edilizia. Abbiamo avuto clienti tipici come può essere stato CNH, Caterpillar, il settore delle gru, che nel 2009 hanno fatto meno 93%, quindi quando si trovi un cliente del meno 93% è stato il dramma. Un dramma che per noi ha significato il primo anno di perdita nella nostra storia. L'azienda l'ha fatta al babbo nel 56, con la passione e l'amore delle aziende fatte nel dopoguerra, quindi io dico si parte tutti da piccoli e quindi siamo partiti, diciamo, da mio padre che ha fatto questa azienda a Bologna. Poi abbiamo avuto il 2009 col tracollo, meno 40%, 30 milioni di perdita. Abbiamo io qui anche ormai amici delle banche, abbiamo rinegoziato l'indebitamento che avevamo, per fortuna non avevamo bisogno di finanza nuova perché l'azienda poi era anche capitalizzata bene. Noi siamo sempre mio padre è sempre stato quello, secondo me, sano, che ha, non è che abbia affamato la famiglia, assolutamente no, ma ha sempre investito prima di tutto nell'azienda. E quindi la crisi ci ha trovato tutto sommato, pur se in una fase critica e quindi di un conto economico negativo, solidi. Come abbiamo reagito? Abbiamo reagito, secondo me questo è uno dei punti importanti di tutte le aziende familiari e non, rompendo gli schemi tradizionali. Abbiamo cercato di avvicinarci al cliente, abbiamo reagito quindi innanzitutto cambiando organizzazione, un'organizzazione per business unit, con l'idea di focalizzarci, perché i nostri business sono diversi. Abbiamo stravolto questo concetto e ci siamo messi a ragionare di lì, non perché è uno slogan, ma perché ti variabilizza, ti accorcia la catena, e consapevoli che quello che stiamo vedendo oggi sarà una delle tante crisi che continueremo a vedere, devi essere variabile, devi essere flessibile. Quindi se hai una catena lunga, se hai dei magazzini alti non reagisci. Abbiamo ragionato di internazionalizzazione ancora di più. Io credo che tante volte si misura l'export, il nostro settore, l'export è sempre più meno l'elemento richiesto. I nostri clienti, e questi sono quelli che fanno il trend, ci chiedono di essere presenti vicino a quelle che oggi sono piattaforme continentali. Quindi quali sono i paesi diventati più importanti? Allora, è chiaro che noi abbiamo duplicato lo stabilimento in India, stiamo duplicando lo stabilimento in Cina, avendo già posizioni comunque di montaggio in tutti i paesi, dal Brasile, Australia, abbiamo aumentato la nostra capacità in Slovacchia, non tanto perché la Slovacchia è un paese che cresce, ma anche in termini di quelle che sono lo spostarsi verso una tipologia di settore che per noi è meccanica pesante. È chiaro che chi ha sofferto l'Italia, che in termini occupazionali nel nostro caso ha significato una riduzione dell'organico in Italia, ha significato una crescita dell'organico in termini mondiali però. Quindi noi abbiamo spostato, abbiamo aumentato in Vietnam, che comunque è un polo produttivo per l'Asia, adesso stiamo partendo con uno stabilimento in Cina. L'altro elemento, secondo me, molto importante è il tema innovazione e ricerca. E qui, secondo me, è il tema critico delle aziende di oggi e delle aziende di domani. Oggi noi, ma tutte le aziende, sono più povere. Fare ricerca vera, non, anche per un'azienda come noi, che oggi assumiamo continuamente ingegneri, ma ne assumiamo 10, in ricerca 20, hai bisogno invece di centinaia di persone. E l'altro elemento è formazione, uomini, perché oggi c'è un elemento di discontinuità importante che credo che prima di tutto noi imprenditori dobbiamo cavalcare e capire, cioè non è detto, e questo mio padre che dico mi ha lasciato l'anno scorso, ma è stato sempre uno che ha capito questo tipo di esigenza, ha accettato la discontinuità, non, l'ha sofferta ma l'ha capita, non è detto che quello che era il modello di successo di ieri sarà il modello di successo di domani. Le interviste sono di Alessandra Scaglioni e Anna Marino. Voci di Impresa vi dà appuntamento alla prossima settimana.